commissione di vigilanza. Si apre il Festival del Cinema di Roma, 150 film in cartellone, e si apre con il fuori concorso di Veronese, L'ultima ruota del carro. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Tra le altre cose che vi faremo ascoltare sono anche le parole pronunciate poco fa dal Presidente del Consiglio, Enrico Letta, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, che ha parlato anche di IMU. In apertura però il Papa e le sue dure parole sulle tangenti. Si comincia con piccole dosi, una bustarella, poi un'altra, ma poi si sa, diventa una dipendenza, come la droga. Usa questo paragone Papa Francesco nella sua omelia durante la quotidiana messa nella Casa Santa Marta. La corruzione come gli stupefacenti, dunque. La corruzione, dice il pontefice, è un peccato grave perché toglie dignità. Per questo la mia preghiera va ai tanti bambini e ragazzi che ricevono pane sporco dai loro genitori, genitori devoti alla dea tangente, genitori che dovrebbero accorgersi invece che la dignità viene dal lavoro onesto, dal lavoro di ogni giorno e non da queste strade più facili che alla fine però ti tolgono tutto. La corruzione morale come un piano inclinato, piccole violazioni spesso precedono e favoriscono reati più importanti, dice Bergoglio, che usa la parabola dell'amministratore disonesto, ricordando la figura del ricco Epulone che aveva tanti granai, tanti silos ripieni e non sapeva che farne. Attenzione però, mette in guardia il pontefice, non si può generalizzare, non tutti gli amministratori di aziende o di governo sono così. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E intanto questo è uno dei temi dibattuti a Roma, dove l'indagine sull'ATAC si allarga e fa discutere. Biglietti clonati per creare un bilancio parallelo, 70 milioni di euro sottratti ogni anno ai libri contabili e accantonati in fondi neri che servivano per foraggiare la politica. È una nuova bufera quella che si abbatte sull'ATAC, l'azienda del trasporto pubblico della capitale già travolta dallo scandalo sulla Parentopoli. Sul caso la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per ora contro ignoti, anche dopo alcune segnalazioni da parte dell'azienda. In base a quanto emerso finora, la presunta truffa sarebbe stata suggellata da un accordo politico bipartisan fra destra e sinistra e avrebbe contato sulla complicità di alti dirigenti dell'azienda. I ticket falsi sarebbero stati stampati in un bunker segreto e venduti poi a rivenditori compiacenti. Per ora non ci sono indagati, ma in un'altra inchiesta parallela 15 persone, fra le quali alcuni dipendenti infedeli dell'ATAC, sono state rinviate a giudizio sempre con l'accusa di aver stampato biglietti clonati. L'azienda oggi assicura la sua piena collaborazione con la magistratura, mentre furibondo Ignazio Marino annuncia il pugno duro: hanno tradito la città, ma ora si volta pagina, cacceremo i ladri, assicura il primo cittadino della capitale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo adesso alla vicenda del sindaco di Adro, come si diceva nei titoli, personaggio molto noto alle cronache. I carabinieri hanno suonato al campanello della sua abitazione alle 6 del mattino con il mandato d'arresto ai domiciliari. Oscar Lancini, sindaco leghista di Adro, avrebbe favorito, questa l'accusa in sostanza, alcune aziende nella gara d'appalto per la realizzazione di diverse opere in paese. Ma questa è solo l'ultima delle vicende che hanno coinvolto negli anni Lancini, personaggio molto noto alle cronache nazionali. Suscitò non poche polemiche, ad esempio, la sua crociata contro i genitori dei bimbi che non pagavano la mensa all'asilo, ai quali negò il pasto. Ne nacque anche un contenzioso con il presidente Napolitano e Lancini venne indagato e poi prosciolto per vilipendio al capo dello Stato. Sempre sua l'iniziativa di tappezzare il nuovo polo scolastico con il sole delle Alpi. Vicenda per la quale invece è ancora in corso una causa civile. Infine, si fa per dire, la vicenda che coinvolse l'allora azienda di famiglia, la ELG, che versava scorie tossiche nell'ambiente. Vicenda per la quale, anche grazie alla prescrizione, non è mai stato condannato. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora cronaca, con il terribile racconto arrivato da Agrigento e del quale già vi parlavamo nei titoli. Il racconto dei naufraghi di Lampedusa, il racconto delle violenze subite dalle donne, ma anche dagli uomini, prima del viaggio della speranza finito appunto in un naufragio. In diretta da Palermo, Nino Amadore. Nino, allora, eccoci. Sì, come è chiaro ormai è stato... stato arrestato questo somalo Muawud el-Muhyiddin di 34 anni che si nascondeva nel centro di accoglienza di Lampedusa. Insieme a lui è stato arrestato anche un palestinese, ma il somalo era sul barcone che è naufragato il 3 ottobre e in cui sono morte, come si ricorderà, 366 persone, mentre l'altro scafista, Tur Abdalmen, che è un palestinese, è stato arrestato per un altro viaggio della morte. Dai racconti dei sopravvissuti che sono stati interrogati e determinanti anche in questa vicenda, i sopravvissuti del naufragio del 3 ottobre emergono particolari veramente agghiaccianti. Per esempio, circa 20 ragazze di 3 sono state prima stuprate in Libia prima di partire per Lampedusa sul barcone che poi è naufragato e dove 19 di loro sono morte, e poi dopo essere state stuprate dai somali, tra cui l'arrestato, venivano offerte in dono ai miliziani libici. Gli investigatori, che sono stati coordinati dai magistrati della DDA di Palermo, hanno ricostruito i viaggi della speranza di questi dei migranti. E le carovane vengono intercettate dalle organizzazioni paramilitari tra il Sudan e la Libia nel deserto. I migranti vengono sequestrati, portati in veri e propri centri di tortura, seviziati, tenuti prigionieri fino a quando le famiglie non mandano i rapitori il riscatto, che va dai 3.300 ai 3.500 dollari. Poi vengono portati sulle coste, imbarcati per l'Italia, e per il viaggio pagano 5.000 dollari a testa per andare a morire, come si è visto. Grazie Nino Amadore per questo racconto terribile. Noi adesso passiamo all'economia italiana, innanzitutto perché ha appena parlato il Presidente del Consiglio Enrico Letta in merito all'IMU e alla questione della seconda rata, sulla quale naturalmente bisogna trovare le coperture, mancano 2,4 miliardi, dunque ascoltiamolo. L'altro cortocircuito mediatico, anche qui lo dico subito per chiudere discussione di questi giorni, legato alle frasi che sono state del ministro Saccomanni sul tema dell'IMU e che sono state poi usate per polemiche nei giorni scorsi. Il ministro Saccomanni ha detto quello che tutti noi abbiamo detto e che anch'io ripeto adesso, e cioè che la decisione sul fatto che nel 2013 la prima e la seconda rata dell'IMU non verranno pagate dalle famiglie italiane è una decisione già assunta, punto, e sulla quale non si torna. Così Letta. Ieri intanto, per restare sull'economia, il taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Banca Centrale Europea. Ma che effetti avrà? Sentiamo. Il denaro costa meno, ma le famiglie ne avranno di più in tasca. Non è affatto automatico. La mossa di Francoforte ha infatti poche conseguenze per la vita di tutti i giorni degli italiani, almeno sul breve periodo. Per chi ad esempio paga un mutuo a tasso variabile non cambia quasi nulla. I mutui infatti seguono il tasso Euribor, già quasi a zero. Per le casse delle imprese invece la mossa di Draghi potrebbe rappresentare un piccolo volano per la ripresa. Secondo la CGA di Mestre, ad esempio, le imprese beneficeranno di un costo del finanziamento più basso e il risparmio sarà di 2,8 miliardi all'anno. E poi c'è l'effetto cambi. Sentiamo Marco Fortis, professore di economia alla Cattolica di Milano. Il mancato annuncio di questo ribasso dei tassi avrebbe sicuramente spinto l'euro ulteriormente verso l'alto, quindi ciò avrebbe comportato sicuramente una perdita di competitività dell'export italiano ed europeo. Quindi è molto importante che questo provvedimento sia stato adottato. C'è da dire che Mario Draghi ha detto e ribadito più volte che l'effetto cambi non è un obiettivo della BCE, ma certo, come effetto collaterale, un euro debole non può dispiacere alle nostre aziende. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E andiamo ai mercati oggi per parlare soprattutto di due casi negativi, sono quelli di Finmeccanica e Telecom. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno, ci mancavano Finmeccanica e Telecom a trascinare oggi a ribasso Milano, che già ieri è stata protagonista degli scambi in Europa con un calo molto vistoso, oltre 2 punti percentuali, che ha accompagnato naturalmente anche il ribasso delle altre piazze europee. Ribasso che oggi continua, è particolarmente accentuato per Parigi, meno 1 punto percentuale dopo il downgrade da parte dell'agenzia di rating, DAX Francoforte meno 0,7, Londra Londra meno 0,4, Milano perde un po' meno, ma è in rosso anche il FTSE MIB meno 0,39%. Come dicevate, questo a causa dell'effetto trascinamento determinato dai cali molto forti di Finmeccanica e Telecom Italia, rispettivamente meno 6 e meno 5,69% in questo momento. In avvio i due titoli hanno anche fatto fatica ad entrare in contrattazioni quando il mercato appunto ha accolto le società. Finmeccanica perdeva 7,5 punti, il gruppo ha presentato i conti e c'è una significativa riduzione per quello che riguarda le previsioni dei margini, stesse indicazioni per Telecom Italia, il gruppo ha espresso proprio questo concetto, i conti del 2003 saranno significativamente diversi rispetto alle previsioni che sono state fatte nei mesi precedenti e di conseguenza questa è l'accoglienza del mercato e per ora è tutto. Grazie Deborah Rosciani, molti dettagli su questo naturalmente sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com, dove invece sul quotidiano Oggi Net in edicola molti dettagli appunto sul taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. La politica adesso, soprattutto di PD parliamo, lo scontro all'interno del partito è ancora sul caso Cancellieri, ieri le parole di Renzi, ospite di servizio pubblico, la replica oggi al microfono di Giovanni Minoli a Mix 24 di Pierluigi Bersani e poi sentiamo anche il punto di Stefano Folli. Credo che sia inaccettabile che sia andato a finire così. Se io fossi stato il segretario del PD non avrei difeso la Cancellieri e credo che avrebbe fatto un servizio al paese se si fosse dimessa. Dopodiché tutte le discussioni oggi terminano su un dato di fatto, e cioè che le dimissioni in Italia le chiedono tutti e non le dà nessuno. Ma mi pare quella di Renzi l'affermazione un po' troppo facile, che peraltro non gli ho sentito fare così nettamente nei giorni scorsi, no? Perché davanti a scelte di questo genere bisogna prendersi anche le responsabilità. E lei se la sarebbe presa? Io me la sarei presa. Di votare per la Cancellieri, perché la Cancellieri continuasse, insomma. Sì. Senta, nonostante, intendiamoci, lei stessa ha riconosciuto che è stata un'inappropriatezza in quella vicenda, assolutamente, ma credo che la spiegazione dei fatti ci metta in condizione di dire che può continuare il suo lavoro. Il punto di Stefano Folli. Fra sottintesi e allusioni il duello fra Matteo Renzi ed Enrico Letta va avanti e noi non siamo sicuri che proprio di questo abbia bisogno il nostro disastrato paese. Sta di fatto che i due formalmente membri dello stesso partito si lanciano avvertimenti trasversali. Quando Renzi dice che fosse stato per lui il ministro Cancellieri avrebbe dovuto dimettersi, è a Letta che parla visto che il premier aveva difeso con forza il suo ministro. E quando Letta, con singolare e diciamo così impropria espressione, parla delle sue palle d'acciaio, è anche al sindaco di Firenze che si rivolge, come per dirgli guarda che sono un osso duro, non mi smonterai facilmente. Uno Letta gioca la carta dell'affidabilità, l'altro Renzi quella della spavalderia. Uno vuole tenere in ordine il quadro esistente, l'altro ha una certa voglia di buttarlo all'aria. Tutto chiaro, ma l'importante è che entrambi decidano di remare nella stessa direzione. Andiamo all'estero adesso e parliamo del programma nucleare iraniano, perché si sarebbe vicini ad un accordo che però a quanto pare non piace ad Israele. Gli aggiornamenti in diretta con Alberto Negri, collega del Sole 24 Ore ed esperto naturalmente di questioni estere ed Iran. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che cosa si sa al momento? Beh, al momento sappiamo che Kerry è volato a Ginevra, il segretario di Stato americano, dopo un incontro con Netanyahu questa mattina all'aeroporto di Tel Aviv, in cui il primo ministro israeliano si è dichiarato ferocemente contrario a ogni tipo di accordo e addirittura ha detto questo accordo è l'accordo del secolo per l'Iran, ma è un cattivissimo accordo per il mondo occidentale. Questa reazione di Netanyahu è abbastanza indicativa, non solo della posizione assai irritata di Israele, che dice di volersi tenere libere le mani per ogni intervento militare, ma ci rivela anche che probabilmente questo accordo è molto vicino proprio per questa reazione del primo ministro dello Stato ebraico. Alberto, come mai la reazione israeliana è così dura? Ma perché il risultato di questo accordo è un risultato politico. Innanzitutto chiariamo che probabilmente l'intesa è solo il primo passo, ci sarà probabilmente un congelamento, si dice, di un 6 mesi del programma nucleare iraniano in cambio dell'alleggerimento di alcune sanzioni o dello scongelamento di fondi iraniani che sono in giro per il mondo. questo potrebbe essere l'accordo, quindi un accordo ad interim prima di un accordo definitivo. Ma quello che ci interessa è il risultato politico di questo accordo, che consiste in poche parole nella legittimazione dell'Iran come potenza internazionale e regionale, e questo è chiaramente una svolta storica. Grazie ad Alberto Negri del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Chiudiamo questa parte con il cinema, perché al via oggi l'ottava edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. Si parte con Elio Germano. È l'ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi, il film d'apertura di questo Festival di Roma. Germano è un autista di camion che per 40 anni attraversa l'Italia e ne osserva tutti i cambiamenti. Il cast del film sarà questa sera sul red carpet del festival, che verrà inaugurato da Sabrina Ferilli. Primo tappeto rosso della giornata è invece quello di Planes, il film d'animazione della Disney, che verrà presentato nella sezione dedicata ai ragazzi Alice nella città. Film d'apertura della sezione Cinemaxi invece L'amministratore di Vincenzo Marra. Tra i momenti più attesi dei 10 giorni dell'auditorium, i tradizionali incontri dei protagonisti del cinema con il pubblico. Ci saranno tra gli altri John Hurt, Jonathan Demme, Spike Jonze, Wes Anderson e, su tutti, il re del box office italiano Checco Zalone. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il presidente del Consiglio Letta interviene alla fine del Consiglio dei Ministri e dice: la seconda rata IMU non ci sarà, però le coperture sono difficili. Il Papa: preghiamo per i bambini che ricevono pane sporco dai genitori, devoti alla dea tangente. A Roma nuovi dettagli sullo scandalo ATAC. Appalti, intanto appalti ad aziende di amici, è stato arrestato il sindaco di Adro, quello che fece costruire la scuola col sole delle Alpi ovunque. Rinchiusi in un campo di concentramento tra Sudan e Libia, torturati, le donne violentate, è il racconto dei sopravvissuti al naufragio di Lampedusa. Il giorno dopo la presentazione dei conti affondano in borsa Telecom e Finmeccanica, l'azienda telefonica riceverà 1 miliardo per la sua partecipazione in Argentina. E come annunciato prima della viabilità, adesso invece vogliamo occuparci di Rai. E perché ce ne occupiamo? Perché è uscita fuori una vicenda grazie all'interrogazione in commissione di vigilanza Rai a firma di un senatore del Partito Democratico, Margiotta, una vicenda che riguarda un ufficio che a quanto pare fino a questo momento era persino sconosciuto al direttore generale della Rai Gubitosi, un ufficio omaggi. Questo ufficio omaggi ha speso 500.000 di euro a quanto pare in 4 anni, dal 2008 al 2012, facendo regali, leggo dalle cronache, 6 orologi Jaeger LeCoultre spesa 18.500 euro, altri 250 orologi di minor pregio da 17.500, 92 oggetti di argenteria, e non si conoscono a quanto pare nemmeno i destinatari. Saluto Roberto Fico, presidente della commissione di vigilanza RAI. Buongiorno e benvenuto. Salve, buongiorno. Che cosa dice Fico? Dico che chiaramente non va bene questo tipo di atteggiamento. Dico che le risorse pubbliche devono avere percorsi certi e la RAI ha 1.750.000.000 di euro all'anno di canone, quindi è finanziata dai cittadini, e i cittadini devono sapere perfettamente come vengono spesi i loro soldi. Ed è chiaro che se noi vediamo che c'è una spesa di 500.000 di euro in 4 anni per regali, non farà felice i cittadini. Ed è bene che i commissari in vigilanza, in questo caso il vicepresidente della commissione, abbia fatto un quesito e avuto risposta dalla RAI. La RAI deve fare assoluta chiarezza, però un altro discorso è molto importante. Qui parliamo di 500.000 euro, ovvero di 500.000 di euro in 4 anni. Noi sappiamo che la RAI dà all'esterno, più in appalti, più di 1.300.000.000 di euro. Allora noi su tutti questi appalti che dobbiamo fare estrema chiarezza e avere tutti quanti dati chiari e certi, e la trasparenza nel modo in cui gli appalti vengono gestiti e vengono assegnati. Questo è uno scandalo veramente di 500.000 euro, vergognoso, perché c'è la modalità e la cultura di spendere i soldi pubblici come se fossero i propri. Ma la cosa incredibile è che, almeno a quello che si legge per ora, che poi ci sono persone che hanno accettato questi regali e si parla di parlamentari, di persone comunque della politica, a me si arrivasse anche un esiste una lista, Fico, di chi ha ricevuto questi regali che voi sappiate, che siate riusciti a capire? No, al momento no, non ho nessuna lista qui con me delle persone che hanno ricevuto i regali, ma è incredibile per me che un parlamentare, un ministro possa ricevere regali anche da un'azienda pubblica, e a me se arrivasse anche una scatoletta di cetriolini la restituirei al mittente. Senta, ma l'avete richiesta alla RAI questa lista? Sapete se è in possesso loro oppure no? No, questo non l'abbiamo ancora richiesto, non lo sappiamo. La richiederete? Vedremo anche tutto l'audit interno, chiederemo chiarezza all'audit interno alla RAI di quello dei processi che sono stati avviati. E senza dubbio sarà molto interessante poi conoscere anche i nomi delle persone che hanno ricevuto regali, che erano emittenti dei regali, e quindi di mezzo milione di euro di soldi dei cittadini. Quindi la richiederete questa lista e la renderete pubblica? È una possibile richiesta che possiamo tranquillamente fare alla RAI, però questo è un qualcosa che deciderà magari la Commissione anche nel prossimo ufficio di presidenza. Sento una cosa, l'ultima, più o meno l'ultima domanda che le voglio fare. Allora, sì. Mi sembra che quello che state chiedendo sostanzialmente, che sta chiedendo lei e che progressivamente avanza, direi che forse è una richiesta un po' di tutti alla fine, è una completa disclosure, come si dice, cioè un'operazione di trasparenza completa sui conti della RAI. Ma che speranze ci sono da questo punto di vista? Quello che probabilmente anche insomma, la gente vuole è una cosa voce per voce che si vada ad analizzare, si vada a capire anche quegli appalti che dice lei, no? Sì, si spendono quei soldi, quanti ne rientrano per la spesa che si fa in appalti, insomma, anche da un punto di vista di equilibrio economico, no? Sì, io le dico che le speranze sono buone perché già in questi mesi di lavoro sono successe, abbiamo avuto delle documentazioni che mai nella storia della vigilanza erano state acquisite, ed è un libro intero di tutte le aziende che hanno superato il processo per entrare nell'albo fornitori RAI. Conosciamo le aziende principali degli fiction nel budget stanziato, conosciamo per la prima volta nella storia gli stipendi a fasce dei dirigenti giornalisti e dei dirigenti amministrativi, e abbiamo illustrato per la prima volta nella storia il piano industriale RAI in diretta streaming, abbiamo una commissione che lavora in una trasparenza massima, con la pubblicità massima dei lavori e di tutta la documentazione che arriva, quindi le cose si fanno se si vogliono fare, se c'è la volontà politica di farle, di perseguirle con un lavoro costante, meticoloso e serio. Quindi io questo lavoro ho intenzione di farlo insieme a tutta la Commissione, e alla fine arriveranno i risultati. Perché c'è un'idea sbagliata delle aziende pubbliche. L'idea sbagliata delle aziende pubbliche è che i soldi che loro hanno ne fanno l'uso che vogliono, invece devono dare conto alla cittadinanza. E quindi la RAI non deve proprio più essere quel non luogo dove tutto praticamente è possibile e consentito, e deve diventare veramente un luogo chiaro e sicuro per la democrazia del paese, perché se è un'agenzia, un'azienda principale della democrazia e dell'informazione del paese, perché l'informazione è un luogo chiave per la democrazia del paese, non può essere altro che un'azienda trasparente e che abbia un prodotto di alta qualità e libera da ogni condizionamento del potere. Fico, visto che ce l'ho qua sotto mano, non resisto. Ha letto nei giorni scorsi che si è parlato di una possibilità di privatizzazione della RAI, insomma, sono voci che sono circolate molto forti, se ne è discusso. Lei come la vede? Le dico una cosa molto chiara su questo. Non si può mai in questo paese parlare della privatizzazione della RAI se non si mette sul piatto del Parlamento, e quindi se le forze politiche che hanno parlato di privatizzazione non mettono, come abbiamo fatto noi, sul piatto conflitto di interessi e legge antitrust seria, non si procede a nessuna privatizzazione. Fatte queste normative del conflitto di interessi seria e della legge antitrust vera, che questo paese non ha mai avuto, allora poi possiamo parlare anche di privatizzare una parte della RAI. Ma è un discorso che poi va a prendere tutti i settori della vita e della società pubblica tramite l'antitrust e tramite il conflitto di interesse. Grazie Roberto Fico, Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, per essere stato con noi. Le auguro buona giornata naturalmente e buon lavoro in questa ricerca, insomma, no, dei conti della RAI. Noi passiamo ad altro argomento. Come vi ho detto, vogliamo continuare a stare addosso alla vicenda della Terra dei Fuochi, della quale forse ci siamo occupati con colpevole ritardo, un po' tutti noi giornalisti, diciamolo. Terra dei Fuochi, parliamo di quella zona tra Napoli e Caserta nella quale negli anni la camorra ha seppellito tonnellate di rifiuti, anche tossici, persino nucleari, e dove naturalmente a seguito di questo c'è quello che qualcuno ha chiamato biocidio, insomma, no? Un incremento di problemi sanitari gravissimo. Ed è proprio di questo che vogliamo iniziare a parlare oggi. Saluto Antonio Marfella, tossicologo, oncologo dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli e referente di Medici per l'Ambiente. Salve, benvenuto. Allora, che cosa ci dicono i numeri, Marfella? I numeri ci dicono sempre, ho sentito che avete appena concluso una intervista sulla trasparenza. In realtà il concetto è esattamente lo stesso. Noi, per parlare prima di dati sanitari, quindi dei numeri sanitari, noi dobbiamo affrontare in trasparenza, che non è mai stato fatto in Italia e ancor più in Campania, i numeri dei flussi dei rifiuti industriali, che oggi sono i 5/6 del problema rifiuti in Italia, e continuiamo invece a parlare e anche a umiliare i cittadini campani. Ieri ho sentito Liguori che li offendeva a Canale 5 parlando ancora di un sesto del problema che non è mai stato il problema né in Campania né in Italia, cioè i rifiuti urbani. Allora, in realtà, mentre stiamo parlando in trasparenza, che non c'è, dovremmo tutti essere consapevoli che mentre stiamo parlando, ogni minuto che parliamo, la regione Campania produce circa 5 tonnellate al minuto di rifiuti urbani, per cui siamo umiliati, e 14 tonnellate al minuto di rifiuti industriali, tossico-nocivi anche, che sono quelli il cui scorretto smaltimento ha ben differente significato rispetto a quelli urbani, che ha provocato un problema di cui purtroppo ci stiamo adesso svegliando. Allora, Marfella, i numeri. I numeri, allora, sono, per quanto riguarda i rifiuti sversati, non meno di circa 20 milioni di tonnellate di rifiuti tossici sversati, sia campani che non campani, con un flusso ancora quotidiano e costante nord verso sud. Per quanto riguarda i numeri di salute, allora noi purtroppo, e questo soltanto negli ultimi 20 anni, innanzitutto abbiamo perso 2 anni di vita media a testa in questa regione ed eravamo in perfetta media nazionale nel parametro Istat aspettativa di vita alla nascita. Poi, se ci vogliamo limitare all'ultimo dei problemi di salute, che è il cancro, perché è quello che viene per ultimo, il più grave, ma non è l'unico, anzi è l'ultimo, possiamo purtroppo attestare, e siamo molto preoccupati, che i dati ufficiali ci attestano, e su questo siamo in perfetta sintonia col Ministero, che siamo la regione più giovane d'Italia, ma quella in cui, in quei territori, in quelle province di Napoli e Caserta, abbiamo comunque un eccesso di tumori, sia per incidenza che di mortalità, di tutti i tipi. Poi quello a cui fate riferimento voi e che mi sta preoccupando di più è quello che non è un dato epidemiologico ufficiale, ma è comunque un codice 048 di esenzione ticket sempre ufficiale, che hanno raccolto i nostri medici di famiglia di quei territori che ormai si sono attenzionati a questo problema e che hanno purtroppo mostrato tra il 2009 e il 2013 dei numeri che vi ho trasmesso che sono certamente preoccupanti. Allora, abbiamo un aumento dei codici 048, esenzioni ticket in soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne, quindi da tumori maligni. Acerra, più 81,2% nel giro di 3 anni. Giuliano, più 63,8% nel giro sempre di 3 anni. Marano, quarto, 41,6%. 10,7%, Mugnano Melito 39,9%. Allora, Marfella, purtroppo il nostro tempo è esaurito, ma ho intenzione di tornare a sentirla e tornare a parlare con lei di questa vicenda e di questi temi con altri dettagli ulteriori, magari lo faremo già la settimana prossima. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo una pausa e poi ci ritroviamo con l'inchiesta di Daniele Biacchessi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Letta sull'IMU, la decisione che la seconda rata non sarà pagata è una decisione già assunta e non si torna indietro, solo che le coperture non sono semplici. Il Papa: preghiamo per i bambini che ricevono pane sporco dai genitori, devoti alla dea tangente. Appalti ad aziende di amici, arrestato il sindaco di Adro, quello che fece costruire la scuola col sole delle Alpi ovunque. Il giorno dopo la presentazione dei conti affondano in borsa Telecom e Finmeccanica, l'azienda telefonica riceverà 1 miliardo per la sua partecipazione in Argentina. E ora veniamo all'inchiesta che ogni lunedì, ogni venerdì ci fa Daniele Biacchessi, questa settimana dedicata, o meglio questo venerdì, dedicata al Festival dei beni confiscati alle mafie. Ma chi ha detto che a Milano la mafia non esiste? Se si dovesse giudicare non tanto dalla lunga storia delle infiltrazioni criminali, quanto invece dal numero di beni confiscati, le mafie sono una forza ancora potentissima a Milano e provincia. Qui si sono piazzate tutte le mafie conosciute in Italia e nel mondo. Solo la 'ndrangheta calabrese gestisce l'intero mercato della cocaina e, con il concorso di politici corrotti, il giro del movimento terra nell'Interland. Le mafie si possono combattere anche con la cultura e per questo oggi parte il secondo festival sui beni confiscati. L'assessore del Comune di Milano, Pierfrancesco Maiorino. Sono 117 i beni confiscati alle mafie che il Comune ha ricevuto in assegnazione da parte dell'Agenzia Nazionale, finito l'iter giudiziario che li ha riguardati. E poi ce ne sono però almeno altrettanti che non sono in assegnazione al Comune, presenti nella città di Milano. Quindi insomma siamo di fronte veramente a un'enormità. Nell'ambito di 115 dei 117 beni al comune si sviluppano col terzo settore progetti riguardanti la persona, la promozione dei soggetti più deboli, diciamo progetti sociali fatti con le associazioni. In due poi beni noi svolgiamo attività direttamente, uno di questi è il social market, dove peraltro anche in quel caso comunque grazie a un rapporto forte col terzo settore, l'associazione Terza Settimana, famiglie impoverite dalla crisi fanno la spesa a basso costo. Il festival si snoda nei luoghi sottratti alla potenza economica e criminale delle mafie, tra teatro, ridi, narrazioni, presentazioni di libri, musica. Barbara Sorrentini è la direttrice artistica del festival. Dal punto di vista artistico inizialmente l'idea era quella di portare cose di vario genere, non necessariamente legate alla tematica mafiosa. Poi abbiamo visto che l'adesione, soprattutto l'anno scorso, è stata altissima e soprattutto l'interesse per andare ad ascoltare appunto magistrati che raccontavano le loro storie, i casi che hanno seguito, piuttosto che, penso, quest'anno che verrà presentato il libro sulle Garofalo, una storia che a Milano è molto sentita. Tra l'altro il festival è dedicato a questa donna che ha lottato e ha perso la vita per questo motivo, perché ricordiamo è stata ammazzata dal clan di cui faceva parte come famiglia, non come, come ideali naturalmente, anzi è stato proprio il fatto che li abbia denunciati che poi le è costato la vita. Quindi anche quest'anno l'idea è stata quella di portare spettacoli, c'è molto teatro che parla di questo, penso alle serate, alle tre serate all'Orto Mercato, all'ex discoteca che si trova lì, che appartiene alla Sogeni, che comunque si trova lì all'ingresso dell'Orto Mercato, parteciperanno Fabrizio Gatti, Giulio Cavalli, Cristiani Domenica con uno spettacolo Uffarri su Don Puglisi, farà una partecipazione anche Silvio Orlando, che in questi giorni in scena al Teatro Strehr con Shiloh, che in qualche modo usuraio ante litteram ancora a che vedere con questo tema, e così anche per quanto riguarda alcuni film e soprattutto molti libri che trattano il tema. Certo, le mafie si possono sconfiggere colpendole soprattutto nel portafoglio, nella sottrazione dei beni ai boss, ma senza una cultura della legalità l'opera potrebbe risultare vana. Per questo il Festival di Milano è una piccola buona azione, cioè una buona pratica dell'antimafia, dei fatti. E ora, come sempre, l'appuntamento con le persone che stanno facendo una sorta di staffetta in solidarietà con Roberto Giachetti, che ormai da un mese sciopera, fa lo sciopero della fame per la riforma della legge elettorale. A lui si stanno unendo in molti, un giorno di digiuno per solidarietà, appunto, e per cambiare il Porcellum. Che abbiamo in linea oggi? Chi abbiamo in linea oggi? Pronto? Sono sì. Marco Bellito, infermiere professionale. Allora, perché ha deciso per questo giorno di digiuno? Digiuno perché con Roberto abbiamo condiviso questo progetto di poter modificare il Porcellum, abolire il Porcellum e ritornare a un maggioritario. Scegliere il candidato come per quanto riguarda la scelta dei sindaci, con un premier unico scelto da primarie e una lista di parlamentari collegata a questa scelta di candidato con un programma condiviso. E quindi vogliamo che la legge del Porcellum di Calderoli sia modificata. Grazie Bellito, buona giornata e buon lavoro naturalmente. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Letta la decisione che la seconda rata IMU non sarà pagata, è già assunta e non si torna indietro. Il Papa, preghiamo per i bambini che ricevono pane sporco dai genitori, devoti alla dea tangente. Rinchiusi in una sorta di campo di concentramento tra Sudan e Libia, torturati e violentate le donne, il racconto dei sopravvissuti al naufragio di Lampedusa. Il giorno della presentazione dei conti affondano in borsa Telecom e Finmeccanica. Chi va bene invece in borsa e Twitter? Anche di questo ci parla Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. La chiusura di Wall Street, uno scampanellio molto importante quello di ieri, intanto perché abbiamo avuto un dato macroeconomico, l'economia americana è cresciuta del 2,8% nel terzo trimestre di quest'anno, si aspettavano gli economisti il 2%, un risultato dunque molto buono, non sarà probabilmente ripetuto nel quarto trimestre che sconterà il problema della chiusura del governo americano. Ma la notizia che ha dominato è stata naturalmente il collocamento di Twitter, il social network che ha cambiato Internet, ha cambiato il modo di interagire su Internet, almeno l'ha cambiato per me, sono uno dei milioni, dei 220 milioni di utenti, con una performance straordinaria. Pensate che il prezzo di collocamento era $26, stabilito mercoledì, all'apertura era $45.10, alla fine ha chiuso a $44.94, un aumento del 72-84% sul prezzo di collocamento per una valutazione che è passata in poche ore da $14 miliardi a $24.48 miliardi. Di dollari. Bolla? Ci si domanda, ma è possibile avere una valutazione di questo genere per un'azienda che fattura $500 milioni e ne perde 65? Per alcuni il potenziale c'è. Sentiamo nelle parole dei fondatori Jack Dorsey, Biz Stone, Evan Williams. Che cos'era Twitter? Questa è una registrazione un po' dannata perché è una registrazione che appartiene a qualche anno fa, quando Twitter era ancora agli albori. The other major constraint is we limit everything to 160 characters. Okay. So these are very short focused updates and they're usually personal and they're usually about just random things you're doing during the day instead of being a very composed article. Li avete sentiti? Sono i fondatori di Twitter all'inizio della loro carriera, Jack Dorsey, Biz Stone, Evan Williams, raccontano la loro società. Dicono, bisogna rispondere alla domanda dove sei, cosa fai, perché è un modo per tenersi collegati, uniti fra amici. Ed è sulla base di questo principio che la prima volta che ho usato Twitter, devo dire, non l'ho capito, perché dicevo, ma cosa gliene importa poi ai miei amici di sapere cosa sto facendo in questo momento? Ci ho provato un pochino, poi ho abbandonato, dopodiché sono tornato alla carica dopo alcuni anni e ho capito che in realtà Twitter aveva assunto una forma totalmente diversa rispetto a quella che avevano immaginato i fondatori, ed era diventato un servizio di interconnessione e con delle potenzialità straordinarie. Pensate a quello che ha fatto Twitter, all'utilizzo che è stato fatto di Twitter durante, per esempio, le primavere arabe, nel momento in cui Occupy Wall Street voleva muoversi, darsi un appuntamento. L'altro aspetto importante che è cambiato è stato quello del lusso. Secondo me Twitter, per la sua audience, non è Facebook, che ha soprattutto, diciamo, persone di ogni genere, ma ci sono anche molti adolescenti, dunque ci sono 900 milioni di utenti. Twitter è stato dirottato, diciamo, su quello che può essere un prodotto più di lusso, dagli stessi utenti che lo hanno sposato, plasmato, creato, che gli hanno dato cachet, prestigio, senso di anticipazione. Insomma, ha cominciato a decollare l'opinione, il link a un lungo articolo, non soltanto dove sei, cosa sto facendo, ma magari un commento critico a qualcosa che era uscito con un legame a un articolo. Ecco, dal punto di vista professionale, per me diventa un integratore di news straordinariamente utile. Siamo nel post agenzia, c'è la formazione di un dibattito a distanza in pillole che potevano nascondere testi interminabili. Dunque questo non è un prodotto ideale per l'adolescente, ma un prodotto molto buono per un pubblico di un certo livello. There is such a, I think, a need and a recognition, you know, hey, as long as we have the basic rudimentary components, we can start assembling it for ourselves, and we can feed our own community, we can treat our own community, and we can make these things work for what makes sense to us. Bene, chiudiamo con Chris Messina. Pensate, una delle caratteristiche di Twitter, tra l'altro, scriveteci, diteci cosa pensate di Twitter, fateci sapere quali sono le vostre idee. Il nostro programma vuole essere interattivo, lo dico sempre, chiocciola Mario Platero. Bene, Chris Messina è colui che si è inventato l'hashtag. L'hashtag è il segno che indica, diciamo, il numero e che riunisce gruppi di utenti, quindi è stato uno sviluppo straordinario per Twitter. Ebbene, è stato uno sviluppo gratuito perché Twitter fa crowdsourcing. Questo signore, un utente, se l'ho inventato lì per lì, lo ha dato come suggerimento, l'idea ha decollato, Twitter non ha investito una lira e oggi, purtroppo per questo signore, di questa quotazione miliardaria, parliamo di una valutazione di 24 miliardi di dollari, a lui non andrà in tasca neppure una lira. Gli ho scritto naturalmente via Twitter chiedendogli come si sentiva oggi, che questa grande giornata da cui lui in qualche modo è stato tagliato fuori, mi ha risposto: beh, spero che mi diano almeno una spilla ricordo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, chiocciola Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, non possiamo che dedicarla a Twitter, questo uccellino che è volato in borsa, e dunque Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Da New York è tutto, Simone, ti ripasso la linea, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24. E grazie anche a te, Mario Platero. Ci risentiamo naturalmente lunedì con Effetto Giorno, all'interno del quale c'è anche America 24, lunedì alle 13. Ringraziamenti Fabio Cantadori in regia, Laura Faggini in redazione, tutta la redazione di Radio 24. A tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio. Invece, appunto, Effetto Giorno torna lunedì.